Siete tutti convocati. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. L'ultima staccata e l'ultima frenata, l'ultimo colpo di acceleratore, sì, super aria verso il cielo, Rossi c'è e vince il Gran Premio di Spagna davanti a Jorge Lorenzo e a Marc Márquez. La battuta profonda sul secondo palo a cercare Mandžukić e poi piazzato e gol del 2-1. Morata, subito la reazione della Juve all'83esimo. Morata 2-1 Juve. Quanto è importante vincere qua a Jerez, a casa di Márquez e di Lorenzo? Guarda, molto. Non lo so quanto è importante, se molto o moltissimo, comunque ho proprio goduto a essere lì nel mezzo sul podio un po' più in alto. Ti posso già chiedere dei cinque qual è il più bello che hai vissuto? Beh, il primo è quello di quest'anno, sicuramente, perché quello di quest'anno secondo me ha del pazzesco, ha dell'incredibile. E se mi conoscete non sono, insomma, diciamo, propenso ad adoperare iperboli su magari vittorie conseguite nello sport, ma in questo caso credo che non ci sia nessun altro aggettivo, ecco, per descriverlo. È la settimana degli anziani, perché a questo punto possiamo dire aspettiamo le 5. Roma-Napoli inizierà alle ore 15 e se il Napoli, tra l'altro vi do l'ultima, non gioca Insigne, gioca Mertens al suo posto, se il Napoli non vince all'Olimpico contro una Roma che peraltro è molto interessata a questa partita, ebbene la Juventus festeggerà il suo quinto scudetto consecutivo. Allegri, bugiardissimo, ha detto non la guardiamo perché dobbiamo fare allenamento. Ovviamente se fanno allenamento avranno 1000 televisori intorno al campo. Gigi Buffon, che abbiamo sentito, grazie Giorgio De Luca, nostro autore, per questa copertina, sarà l'uomo dello scudetto ad anni 38. Valentino Rossi, che pure abbiamo sentito in questa copertina, che ieri ha stravinto ad Erez anni 37, può rimettersi in gioco ed in corsa per il titolo mondiale della MotoGP, e poi parliamo anche di questo. Adesso vediamo cosa fa Totti anni 39. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao, come va? La settimana degli anziani. Anni 42. Anni 40, eh? 42. Tu? Anni 42, io 48. Sì, ma siamo... Siamo totalmente in linea con gli anziani, perché Buffon, che abbiamo sentito dire il più bello, il primo è questo, perché questo ha una storia particolare, 24 vittorie in 25 partite, tutto sembrava perduto, c'erano critiche, polemiche, c'era chi voleva già vedere, come ben sai, Allegri sulla gogna davanti a Vinovo, invece arriverà probabilmente tra un paio d'ore e qualcosa il quinto scudetto consecutivo. Beh sì, sicuramente lo capisco, Buffon ha ragione, secondo me appunto il primo, perché è quello che ha girato la ruota, quello che non si scorda mai, dai. Ultimi posti, sì, dopo Calciopoli, dopo insomma il Purgatorio, è stato lo scudetto che ha rigirato la ruota, e questo perché questo è lo scudetto più pazzesco, più incredibile, perché la Juve, che lo stramerita, si è detto senza se, senza ma, però era veramente all'inizio in difficoltà, una difficoltà in fondo anche abbastanza fisiologica col cambio di, certo, di tanti giocatori, che c'è stato, esatto, giocatori importantissimi, senza quei punti di riferimento la Juve all'inizio ha un po' faticato, poi ha sempre vinto, insomma, ha sempre vinto tranne il pareggio col Bologna, stiamo parlando di un'impresa che secondo me da un certo punto di vista supera anche i 102 punti, anche secondo me, anche secondo me, anche secondo me, è grosso modo stiamo parlando quasi dello stesso punteggio, ma ottenuto passando attraverso sì. l'anticamera del dubbio, in certi momenti anche della conferenza. No? Se me lo permette Conte, quello fu un risultato grosso modo statistico, con la Juventus che dominò il campionato e alla fine faceva corsa da sola in testa, come chi corre per il record dell'ora. In questo caso invece è stata una arrampicata contro un plotone di avversari che a un certo punto sembravano aver staccato la Juventus in modo definitivo. Io sono molto curioso di capire, oggi che siamo in diretta, 25 aprile, auguri a tutti, 800 24 00 24, chi ha la voglia, il coraggio, l'abilità di intervenire. Giovanni da Napoli, buongiorno. Giovanni, alle prese con la grigliata. Giovanni, buongiorno. Giovanni da Napoli. Giovanni. Che fai tu il 25 aprile, Pier, come lo festeggi? Io lo festeggio fra poco commentando Roma-Napoli per della Serie A, e facciamo di chitarra stasera. Con Cordoba, con Ferrero, con Giuliani, con tante cose, ovviamente con gli eventuali collegamenti in caso di questa Juve, insomma. Sì. Potrebbe anche essere il giorno della matematica retrocessione del Verona, che gioca contro il Milan, e che se ha un risultato solo a disposizione, cioè quello della vittoria, poi vedremo cosa faranno Carpi ed Empoli. Ma intanto alle 15 questo Roma-Napoli, tu come lo inquadri questo Roma-Napoli, Pier? Ma lo inquadro come una partita, se dovessi dare un pronostico così direi un pareggio, perché mi sembra una partita equilibrata tra due squadre che stanno tutte e due abbastanza bene. Pareggio della Roma non serve, però ricordiamo, classifica Napoli 73, Roma 68. Sì, il pareggio serve più al Napoli che a Roma, sicuramente, anche se comunque sarebbe un ulteriore punto per proteggere il terzo posto. Io penso che Roma proverà a vincere la partita, proverà a vincere la partita perché è chiaro che vincendola si avvicinerebbe, si porterebbe a meno due, ma soprattutto potrebbe andare a incrinare qualche certezza psicologica nel Napoli, no? Potrebbe evocare una sorta di paura dell'ultimo metro, certo, della squadra di Sarri, che questo secondo posto, diciamo, l'ha sempre considerato giustamente l'obiettivo minimo della sua stagione, perché addirittura sognava il primo. Quindi io penso che la Roma proverà a vincere la partita, però penso che ci sia equilibrio, quindi insomma siamo il pareggio alla fine, il risultato più probabile. No, possiamo dire questo secondo posto obiettivo dovuto per quello che il Napoli sportivamente, sto sempre facendo discorsi di sportivi, obiettivo dovuto per tutto quello che il Napoli ha fatto in questa stagione. Ma assolutamente, il Napoli merita il secondo posto senza alcun dubbio. Poi è chiaro che da qui mancano ancora quattro partite, c'è uno scontro diretto, è chiaro che se la Roma dovesse riuscire a fare questo sorpasso, cosa che non credo, a quel punto insomma sarebbe qualcosa di, dovremmo rivedere anche i nostri calcoli, i nostri ragionamenti, perché comunque le quattro partite che mancano fanno parte a pieno diritto del campionato, quindi possono ancora ovviamente dire qualcosa. Però ad oggi io credo che il secondo posto del Napoli sia un secondo posto strameritato, è mancata rispetto alla Juve secondo me un po' di abitudine alla gestione della testa della classifica. C'è stato un po' poco turnover, e per il resto insomma parliamo comunque di una grande squadra che secondo me ha prodotto un grande calcio. È chiaro che se vogliamo pensarla dall'altro punto di vista, col bicchiere mezzo vuoto, con il gol che ha fatto Higuain è tutto più facile, no? Cioè, no, certo, certo punto di vista, certo, cioè, certo. Da Roma si potrebbe dire, se Dzeko avesse fatto 30% in più di quello che ha fatto, sì, e Higuain un 30% in meno, che significa comunque Higuain capocannoniere con 21 gol e Dzeko lì vicino dalle parti di Bacca e di Dybala, magari oggi la classifica sarebbe diversa. Però con i sei con in mano non si va da nessuna parte, quindi secondo me invece è tutto assolutamente giusto, tutto assolutamente corretto. Higuain è parte del Napoli, certo, c'è un po' la sensazione che quest'anno se non lo vinci quest'anno quei 30 gol di Higuain, ma quando ti ricapita è un po'. Senti, il discorso della Roma, di 2 anni fa, di quando di Garcia, se non lo vinci nell'anno però ti trovi contro una squadra che vince 24 partite su 25, sì, 20, infatti, più, infatti. Cioè 24 più un pareggio nelle ultime 25 partite, e allora ti viene da dire: ma di cosa stiamo parlando? Contro chi facciamo questa corsa? Iuri, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Grazie a lei, buon 25 aprile, Parma. Grazie anche a voi. Volevo fare una domanda a Pardo circa una possibile partenza di Higuain alla fine della stagione, perché come ha detto lui, se il Napoli non è riuscito a vincere lo scudetto quest'anno con 30 gol di Higuain, io credo che queste riflessioni le stiano facendo anche all'interno della società del Napoli. Una seconda domanda la faccio a lei o eventualmente a Pardo, se vuole rispondere, circa la mancanza di abitudine alla vittoria del Napoli, se può essere giustificata solo ed esclusivamente in funzione della mancanza di esperienza del tecnico, o ci sono anche delle situazioni a livello societario che andrebbero riviste. Ti ascolto per radio. No, quanto alla seconda che ha detto, secondo me il Napoli può e deve crescere, non poteva probabilmente fare meglio di così. Quanto alla cessione di Higuain, lo scopriremo vivendo, ma è chiaro che il percorso verso lo scudetto, ma anche la stessa Juventus insegna, non è un percorso così semplice, così rapido. Sì, ma non, assolutamente. Io non penso che per forza se vendi ti indebolisci. La storia del calcio è piena di cose che confermano, no? La Juve che ha vinto vendendo Zidane, l'Inter che ha vinto vendendo Ibrahimovic, quindi l'importante è anche saper vendere bene. Io non credo che il Napoli voglia vendere Higuain, penso però che voglia evitare di depauperare un grande patrimonio che in questo momento ha, perché tra la clausola rescissoria e il rendimento di questa stagione, oggi è chiaro che il Napoli ha un valore enorme a disposizione, e quindi potrebbe anche decidere di monetizzare a patto, però, ma sono sicuro di questo, che si possa poi con quei soldi fare dell'altro. Qui c'è l'esempio assolutamente virtuoso dell'Inter nell'anno della cessione di Ibra, certo, con Eto'o, con Lucio, certo, cioè, non è per forza che se tu vendi un grande giocatore perdi, questo non ci sono assolutamente dubbi. Detto questo sicuramente, insomma, è ovvio che tutti i tifosi del Napoli, e penso lo stesso De Laurentiis, vogliono tenerselo, cioè, non credo che ci sia. Vabbè, ma questo è chiaro, Pierluigi, però se il così la pietra per costruire una casa ancora più grande, allora fai un ragionamento che è puramente anche calcistico, se vogliamo. Fermiamoci un attimo per il traffico, poi torniamo. Giovanni dalla Spezia Giannina, abbiamo altri ospiti. 800 24 00 24, il numero verde. La capolista se ne va, la capolista se ne va. E se ne va. Tutti convocati. Convocati. Direi che stiamo arrivando a un traguardo che a ottobre era praticamente impensabile. Tutti ci davano per spacciati, l'allenatore doveva essere cacciato, ma ecco, come dico sempre, ci vuole molta calma e molto equilibrio, perché momenti di difficoltà in una stagione ci sono. Noi l'avevamo presa un po' troppo allegra e dopo ci siamo rimessi in carreggiata e la squadra ha fatto un cammino straordinario. Qua è una partita difficile, la Fiorentina è una grande squadra, però noi siamo forti, sappiamo che quando giochiamo insieme fino alla fine è molto difficile vincere contro di noi. Adesso solo dobbiamo pensare a vincere lo scudetto, adesso andiamo a casa felicissimi e dobbiamo aspettare un po'. C'è chi ovviamente scrive: il gol di ieri sera annullato, la Fiorentina regolarissimo, dove lo mettete? Lo mettiamo nel conto, naturalmente, caro ascoltatore, di un arbitraggio, quello di Tagliavento, non convincente. Bernardeschi era in linea, quindi il gol era buono, ci poteva stare rigore per intervento di Rogani su Alonso, non c'era per nulla il rigore invece concesso alla Fiorentina. Mettiamo tutto questo nel conto, come sempre succede. Giovanni dalla Spezia, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. A lei. Io sono milanista, integralista, fondamentalista. Integralista, fondamentalista. Sì, sì, fondamentalista. Io ho 15 anni, curva sud, Milan Cavese. Sono dunque cresciuto con questo Milan. Niente, io, voi che siete più vicini a questi orizzonti, potete scrutarli meglio, ditemi qualcosa. Io sono sull'orlo del baratro, ma cosa sta facendo Dio Silvio? Ci ha portato dalle fiamme gialle, ci ha portato in paradiso e ora ci troviamo qui. Che... ma che succede? Non si capisce più niente in questa società. Io veramente non riesco a capire. Si fanno, o si parte con i giovani, poi si prendono giocatori che hanno contratti paurosi, che sono ex giocatori. Non lo so, magari sicuramente ci sono le migliori intenzioni, però mi pare che veramente qui si sia persa di vista il senso della realtà. Sì, una politica societaria un po' farraginosa, diciamo così, un po' ondivaga, un po' incomprensibile anche se vogliamo. Adesso vediamo se zio Silvio si decide a vendere ai cinesi, vediamo qual è il futuro della società. Banalmente si può notare come prima c'era un sacco di denaro che poteva essere speso in mille modi per costruire comunque il club più titolato al mondo, adesso quel denaro non c'è più e dunque il Milan segue altre vie e altre strategie. Ciao Massimo Zampini. Ciao, buon pomeriggio a voi. Pardo, Zampini è da te stasera? No, non è da me perché è in vacanza. Sei ah sì, è in vacanza. Stasera. In vacanza. E poi ovviamente Pugini, anche Base, che Juventino. Abbiamo un'ampia rappresentanza bianconera, come sempre. Senti, portiamogli un po' di sfiga. Portiamogli un po' di sfiga. Come ti prepari a festeggiare lo scudetto alle 5, Zampini? Ma a dire la verità ora sono davanti al mare mangiando un polpo in Grecia, quindi non è proprio una tensione sì, assoluta. Cosa quindi... ti vuoi dire, Pierluigi? Perché è greco Zampini, non tutti sanno che è greco. Sì, no, ma a proposito del nostro rosicare. Molto, io sono, guarda, può aiutare, sono a Cologno Montese in questo momento, sto percorrendo, e quindi, no, ma bella anche la Grecia, ma io preferisco Cologno. Sì, sì, anch'io. Via Monterosa, Milano, poi tempo splendido sì, oggi, quindi chiusa la nostra gabbia di vetro, siamo felicissimi. C'è qualche nuvola, e poi quel polpo fastidioso, com'è questo polpo, com'è fatto? Ma ti dico, era bello morbido, abbastanza buono e comunque il mare davanti, certo un po' di venticello che ci sta, però potrebbe quasi poi dare quel fastidio che... Ma sentite, il centro Italia nevica, hai visto mai che la perturbazione arriva anche dalle tue parti, eh? Sì. No, ma poi il polpo, dai, veramente. Ma poi come fa? Proprio la griglia era? O sì, grigliatino, olio, origano, non era male. Ma con l'origano, mamma mia, con l'olio. Olio magari extravergine d'oliva. Adesso basta, ragazzi, per favore. Abbi pietà, magari. Abbiate pietà, per favore. Magari abbiate un bicchiere di vino bianco pure. Esatto. Cagazzosa, con la gazzosa di Mihajlovic. Senti, Buffon ha detto, Buffon che io reputo il protagonista, il principale protagonista di questo scudetto in una stagione in cui abbiamo visto e stiamo vedendo la grande rivincita degli anziani. Buffon anni 38, la Juventus vince lo scudetto, non ci sono dubbi, sarà lui forse il grande protagonista di questa stagione, Massimo. Sì, lo è stato, perché se è vero che spesso la Juve concede molto poco in generale, però nelle ultime partite, lasciando le prime 10, insomma, che sappiamo come sono andate, nelle ultime un po' ha concesso a Milano col Milan, ha concesso ieri, ha concesso anche nel derby, e Buffon in quei casi, anche in quelle partite in casa in cui la Juve concede uno o due tiri, è costantemente pronto. Quindi è vero che la difesa, la squadra organizzata perfettamente, molto complicata da passare, col 3-5-2 era impostato quest'anno e tutto il resto, però Buffon quest'anno, ripeto, non è l'omaggio alla carriera, al mostro, no, è stato un grandissimo portiere quest'anno, proprio eccezionale. Stiamo parlando di rendimento agonistico sul campo, esatto, non stiamo parlando esatto di bandiere, non stiamo parlando di simboli, non stiamo parlando di niente di tutto questo. Esatto, no, e poi tra l'altro ricordiamo, l'abbiamo ricordato anche in trasmissione da Pier, l'importanza del Buffon poi anche fuori dal campo, ripeto, non la leggenda, ma proprio il Buffon di quest'anno fuori dal campo, dopo Sassuolo, in tanti altri casi in cui lui continuava a crederci, a dire però o ci svegliamo senza alibi, senza cretinate, cose del genere, oppure qua non siamo la Juve, non abbiamo ancora capito cosa siamo. E so, quest'anno secondo me è stato forse l'anno dei 15, non so quanti ne ha fatti Buffon, credo una quindicina alla Juve, paradossalmente è stato l'anno in cui è stato più leader in assoluto. Sì. Sei d'accordo, Pardo? Assolutamente sì, è stato il miglior portiere del campionato in assoluto, anche se non mi dimentico di un grande inizio di Andano, perché i primi tre mesi di Andano mi sono stati clamorosi, quindi darei il secondo posto tra i portieri della Serie A quest'anno. Ad Andanovic o a Buffon? Il primo a Buffon, il secondo a Andanovic. Ecco. Ok, d'accordo, siamo perfettamente d'accordo. Posso prenderselo Viviano, che sta veramente chiudendo alla grande. Detto questo, Buffon è stato leader. Buffon, abbiamo detto molte volte in questi giorni, è una grande storia. È una grande storia di un grande campione e di un grande uomo, dove anche le zone d'ombra ne sottolineano la grandezza, dove anche la depressione che lui ha raccontato nella sua autobiografia, dove anche i momenti difficili, in qualche modo, le piccole debolezze, anche quelle fanno parte della grandezza del personaggio. Quindi, da questo punto di vista, è veramente un cerchio che si chiude, e si chiude secondo me nel migliore dei modi. Poi è chiaro che a lui manca qualcosa che si chiama Champions League, e questo chiaramente è un elemento che rimane, no? Nella sua testa, e forse anche vincere qualcos'altro con la nazionale. Mi ricordo, insomma, l'esperienza in Ucraina, quanto ci avevamo creduto, però insomma stiamo parlando veramente di un grandissimo, ed è evidente che ha fatto bene in campo, ha fatto bene fuori dal campo, paradossalmente forse ha fatto ancora meglio fuori dal campo che in campo, nel senso che è stato, se possibile, ancora più decisivo lì. Ma guarda, difficile distinguere i due piani. Zampini, sei invece d'accordo quando Buffon dice questo è lo scudetto più bello, il primo, va bene, quello che non si scorda mai, ma questo è il più strano, il più bello, il più incredibile, se vogliamo? Allora, il più incredibile, sì. Il più bello è il primo di Buffon, che è il 5 maggio, vabbè, sappiamo perché. Vabbè. Il più bello post-Calciopoli, secondo me, è il primo di Conte, almeno per me. Questo è molto soggettivo, però io non credevo mai, dopo Calciopoli, tornare a vincere uno scudetto entro 4-5 anni. Pensavo che la ricostruzione societaria e il gap, diciamo, accumulatosi in quegli anni, a 2006, 2010, 2011, non fosse colmabile in così breve tempo, quindi io là fui sconvolto nel vincere quello scudetto. Questo certo è più incredibile, perché io veramente, senza nessuna scaramanzia, anche quando ci sentivamo qua tutti convocati a ottobre, a novembre, a dicembre, assistevo anche a questa rimonta con piacere, con ammirazione, ma convinto che ci portasse eventualmente in un posto Champions, oppure al più in una volata finale da concludere all'ultimo secondo, sì, e l'ultima, sì, giornata, sì, chissà come. Invece qua siamo a 4 giorni della fine aprile, davanti a un polpo, ribadisco, quando scudesse in mano. Ma vedi che, prova a alzare gli occhi, vedi che le nuvole nere stanno arrivando, Nuvole nere all'orizzonte, sono sicuro. Una vergogna, veramente una vergogna questo stare lì a indugiare come se avessimo pranzato, tra l'altro. Vabbè, comunque. È l'arroganza juventina. L'arroganza juventina, bravo, l'arroganza juventina, l'arroganza del potere. 8-0-0-24-0-0-24, scatenatevi. Senti, nella partita di ieri, secondo me c'è un elemento che poi è quello che segna la differenza, perché il gol di Morata, anche inutile se vuoi, no? Nel senso che non è che se la Juve ieri avesse pareggiato invece di vinto, sarebbe stato i dubbi sulla vincitrice del campionato, però il gol di Morata ti dà proprio il senso della forza della Juve, della solidità della Juve e tutte le altre. È una squadra che ha dei valori, o semplicemente è più forte. Potrebbe anche esserci questa cosa, molto spesso poi nella vita, quando le cose non succedono, è perché non sei abbastanza qualcosa, quando perdi è perché non sei abbastanza bravo, quando una non ci sta è perché non gli piace o non le piace abbastanza, cioè, quindi probabilmente è questa roba qui, la Juve ha una qualità che poi alla fine fa la differenza, però io credo che ci sia anche un po' di spirito, un po' di mentalità. Secondo me ieri, io ho commentato la partita, e certamente poteva girare in maniera diversa al primo tempo, lo dico agli amici che già hanno scritto, al netto di tutto quello è una partita dove la Juve va in vantaggio, la Fiorentina sta per mezz'ora lì a cercare il pareggio, lo trova e la Juve la sera dopo fa il 2-1, ma lo fa perché magari altre squadre a quel punto si sarebbero messe a coprire il risultato, sarebbero state sfiduciate, avrebbero visto qualcosa. Avrebbero avuto un atteggiamento diverso, certo. La Juve no, l'unico fantasma che ha avuto, che chiaramente pesa tantissimo, è quello dei minuti finali di Monaco di Baviera, e vabbè, questo chiaramente è un modo per far andare di traverso il polpo a Zampini, sì, sì, ma possiamo anche ricordare ricordare anche la sconfitta di Siviglia, giusto per condire, ragazzi, meglio quel polipo. Vi faccio il titolo, è un polpo basso questo. A parte le battute, la mentalità è quella lì, perché qualsiasi altra squadra in quella situazione sarebbe messa lì a ragionare, a pensare, vabbè, prendiamoci il punto, in fondo non facciamo il male. Questa è la Juve. Ecco, ma io voglio chiedere un'ultima cosa a Massimo Zampini, visto che tra poco piove, quindi deve andare a ripararsi. Voglio chiedergli questo: quanto c'è di Allegri in questo titolo? Che abbiamo parlato di Buffon, della difesa, degli intoccabili, degli imperforabili, di Dybala, nuovo fenomeno fuori classe. Abbiamo parlato di un sacco di cose, ma quanto c'è di Allegri, visto che i tifosi della Juventus mica lo amano tanto? Magari nemmeno oggi, no, che potrebbe vincere lo scudetto. Ecco, io credo che siamo già con la finale forse di Champions, ma in generale siamo un po' alla svolta con Allegri, perché c'è moltissimo di Allegri. C'è, oltre a tutto quello che hai detto tu, anche la società, che dopo 10 partite è dodicesima e sta là tranquilla. Non c'è grande allenatore senza una grande società alle spalle. Esatto, però l'allenatore è stato straordinario a dare serenità sempre. Cioè, lui quando diceva a ottobre vediamo chi riderà a Natale, noi lo guardavamo un po' come dire sì, grazie, ci dici queste cose, però insomma. E invece a Natale la Juve era là a 3 punti, non so quanti dalla prima, quando prima era 12 solo al 20 ottobre. Quindi effettivamente lui ha dato proprio quella calma, quella che lui ostentatamente dice calma, prima o poi arriverà il gol, prima o poi arriverà la rimonta. Se noi crediamo in noi stessi, e questo l'ha trasmesso lui. Cioè da dire, come Conte, quando eravamo settimi, ci ha trasmesso quella rabbia agonistica per fare l'impresa impossibile, Allegri, dopo serviva proprio un Allegri nel dire calma, siamo sempre più forti, non ci sediamo e vedrete che alla fine rimarrà. Corri a ripararti, Massimo, che piove. Poco piove. Grazie mille, ciao. Grazie, ciao Massimo Zampini. Pier, stai lì invece, abbiamo la borsa. Ci vediamo, torniamo subito. Scoppiettante, laser, fumogeni e bomboni. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Si ricomincia! Tutti convocati. Io ormai ci sono entrato troppe volte in questa situazione e non ho idea di trattare argomenti come li ho trattati in precedenza, perché sono stato tante volte troppo disponibile. Non vorrei apparire scortese, però ora a noi interessa questo obiettivo della partita. Io sono contento, sono molto felice se Francesco il prossimo anno rifarà la cosa che ama fare, che è contento di fare. Sarò al suo fianco in quello che sarà la sua ricerca del ruolo che deve avere il prossimo anno. 23 minuti all'inizio di Roma-Napoli, che potrebbe assegnare lo scudetto alla Juventus. Pierluigi Pardo ha già le formazioni, o te le dico io tra poco? Dammele. Mo te le do, aspetta, manteniamo la suspense. Antonio, vai. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno, grazie per avermi convocato. Io mi chiamavo perché non ero molto d'accordo sul concetto di dovuto che ho sentito prima a proposito del secondo posto che dovrebbe essere dovuto a Napoli, ma non per il Napoli in sé, ma in generale è il campo che alla fine dice che cosa era dovuto. Però converrà, però converrà che fino a qui il Napoli è la squadra che ha meritato comunque sportivamente e sul campo quel secondo posto per la qualità del gioco assolutamente benissimo. E convengo anche che il Napoli è in questo senso che indico dovuto, non dovuto da chissà chi, Però purtroppo molti non ne danno questa eccezione che le date voi. Va bene, allora proviamo a essere più precisi. Proviamo a essere più chiari e più precisi. Io non ho capito niente. Non ho capito. Che vuol dire? Che accezione gli diamo? Voi avete la accezione giusta. E chi non dà questa accezione, che poi dopo al dovuto incomincia a pensare agli alibi per tutto quello che doveva avere e che non ha avuto. Non so se mi sono spiegato. Quindi dopo arrivano le interrogazioni parlamentari, arrivano la Juve è la squadra più forte, punto, e credo che questo lo riconosca pure Auriemma, che infatti l'ha riconosciuto, e pure i tifosi del Napoli. Poi che essenzialmente in una partita che è Torino-Juve, che chiaramente era una partita col Napoli che era ancora vicino, possono esserci stati gli arbitrali, ma stiamo parlando di una partita, No, no, ma ragazzi, ma, che, no, ma siamo, proviamo a essere chiari, giusto per sgombrare il campo. Quando diciamo secondo posto dovuto, stiamo parlando esclusivamente di sport. Ma certo, con il termine dovuto possiamo sostituire il termine dovuto con il termine strameritato. Perché meritato, il Napoli merita per mille motivi di arrivare a quel secondo posto e oggi, deve a tutti oggi, i costi difendere quel secondo posto. Questo ad stiamo oggi, dicendo. Sicuramente. Eh? Poi mancano quattro partite, c'è uno scontro diretto, vediamo. Ma ad oggi non c'è discussione, assolutamente. Così come secondo me alla fine la Roma merita il terzo posto, sì. Anche perché insomma se avesse probabilmente cambiato prima, cioè, la Roma rimane questo tipo di rimpianto, secondo me. Certo, certo. Ma io credo che la classifica non racconti bugie. Vitaliano, buongiorno. Vero. Buongiorno. Dica. Io Carlo e Pardo chiamo da Pesaro. Sì, vedo, provincia L'imbarazzo di Pesaro. Dove cominciamo, Carlo? Non ho capito. Sono juventino, chiamo da Pesaro. Dove cominciamo con la goduria? Ah, dove vuole lei? Quello che sta mangiando in questo 25 aprile cominciamo. Valentino. Una goduria. La consulti oppure ex Scavolini si è salvata ieri. Sì. Scavolini si è salvata ieri, sì. Si è salvata ieri. E poi arriviamo alla Juve. Sì. La Juve si è salvata pure bene, sì. Anche in anticipo. Sì, sì. Però sì, quello che mi dà fastidio, sarò breve, Carlo. Quello che mi dà fastidio è che continuiamo a dire che gli arbitri non fanno compensazione. Ieri non doveva fare compensazione, aveva sbagliato, punto, basta. Se aveva dato il rigore prima oppure aveva dato il gol prima, noi ci svegliavamo prima e avevamo la forza di pareggiare. Noi non abbiamo, cioè la Juve non ha paura di andare sotto poi di rimontare, il 99% sempre ce la fa, il 90-95%, quindi non ci sono mai le non ci sono mai le controprove, ci limitiamo a leggere la cronaca della partita e a dire quello che si vede. Sono d'accordo con lei sul fatto del discorso sulla compensazione, che è anche qualcosa di molto cestistico, però ci atteniamo ai fatti. Io sono al 200% d'accordo con Pardo quando dice che mai, forse come in questa stagione, non ci sono grandi temi su cui discutere, grandi possibilità di disegni occulti, grandi manovre di palazzo, almeno non si vede tutto questo. Vi regalo anche a Roberto Renga, regalo una parola grossa, intanto lo saluto, ciao Roberto. Sì, buon 25 aprile. Buon 25 aprile, grazie. Vi do le formazioni di Roma-Napoli ufficiali. Allora, per la Roma giocano Szczęsny in porta, Florenzi, Manolas, Rudiger e Digne, centrocampo con Pjanic, Keitana, Ingolan, davanti Salah, Perotti e Sharawi, quindi Dzeko, ma in panchina insieme ovviamente a Totti. Per il Napoli l'unica novità grande è quella dell'assenza di Insigne, che va in panchina, gioca al suo posto Martens, poi per il resto tutto confermato: Reina, Isaiah, Albiol, Koulibaly, Goulam, Alan, Jorginho, Amsic, Caleon, Higuain che ritorna e Mertens che gioca. Capito, Pardo? Queste le formazioni. Ho fatto sorpreso e pensavo che... Che c'è? Te sento più. No, e sto qua, Sì? Dove? Pronto? Se mi dici dove vuol dire che hai sentito che ho detto sto qua. Sì, quando hai detto sto qua t'ho sentito, prima no. Io sono fermo sul posto. E no, sono sorpreso dalla presenza di Mertens dal primo minuto, perché comunque questa mi fa pensare che a Sarri sia venuto il dubbio che forse ha esagerato, diciamo, nel dare la titolarità nella stagione a Insigne nei confronti di Mertens, che viene dalla tripletta contro il Bologna. No, su questo non sono d'accordo, perché Insigne secondo me è stato, insieme ad Higuain, il miglior giocatore del Napoli in questa stagione. Poi possiamo mettere in fila gli altri, Jorginho, l'importanza di un leader come Reina, Amsic e così via, però insomma, che a quattro giornate alla fine dica ah guarda, però forse questo l'ho fatto giocare troppo, no, secondo me ha disegnato bene le gerarchie Sarri. Roberto? Ma sì, io mi aspettavo Mertens sinceramente, dopo l'ultima partita. Insigne ha fatto un campionato strepitoso, però mi è sembrato un po' calando. Uh-huh. E comunque è in panchina e vedrai che alla fine farà fare mezz'ora anche a lui. E io la prima osservazione che faccio, sentendo le formazioni, due soli italiani in campo, nella Roma, nessuno nel Napoli. Se pensiamo che poi ieri a Firenze ce n'erano quattro, per Udinese dall'inizio nessuno, è anche difficile chiamarlo campionato italiano. Sì, questo è un discorso che abbiamo affrontato anche ieri. La mia posizione, che in parte è anche quella di Pierluigi, ma parlo a titolo personale, è che io le distinzioni non riesco più a farle sul massimo livello professionistico possibile in base al colore dei passaporti. Le faccio guardando se un giocatore è bravo oppure no. Parlo. Sì, sarebbe divertente se fosse così, però è che molti stranieri non sono bravi. Che giocano al posto degli italiani, ma è un discorso troppo ampio. È molto ampio, che comprende anche l'aspetto economico, perché se sono un presidente, a parità di valore vado a prendere il giocatore che mi conviene di più, senza guardare troppo, ripeto, al colore del passaporto. Oppure vogliamo dire che ci sono discorsi diversi di procuratori, di maneggioni, maneggiamenti? Io sono molto malizioso, ovviamente so che quando compro uno straniero i soldi vanno all'estero. Sì. E molti se ne fermano anche per le mediazioni e mm-hmm. penso che ci siano interessi personali. Mm. Però tornando al discorso di Pierluigi prima, a me sembra che la classifica sia esatta e che risponda esattamente ai meriti delle squadre: Juventus, Napoli, sì, Roma. Sì, sì, sì. Sono d'accordo. Pardo, ti lascio la chiusura, poi ti lascio andare a commentare la partita e mi tengo ancora un po' Roberto Renga. No, sono d'accordo sui valori che qui il campionato ha espresso. A 4-3 dalla fine, ancora con qualche margine per la Roma nel possibile recupero sul Napoli e per l'Inter il possibile recupero sulla Roma, però non so se il campionato abbia detto questo. E attenzione oggi a Verona-Milan, perché è una partita trappola, è una partita che il Milan deve vincere assolutamente, altrimenti rischia veramente di lasciare il posto al Sassuolo e sarebbe clamoroso. Ciao Pierluigi, ci sentiamo domani. Traffico, torniamo subito con Roberto Renga. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, Roberto Renga, dicevamo prima, insomma, che lo scudetto che sta per arrivare alla Juventus può essere definito come lo scudetto di Buffon anni 38, perché è stato sportivamente ed emotivamente il grande protagonista di questa stagione incredibile per molti aspetti della Juventus. Poi parleremo di Valentino Rossi anni 37 e adesso a te tocca Totti anni 39. Totti anni 40. Sì, il nuovo che avanza è la generazione verde. Io dico che ormai l'età dell'uomo si è allungata, no? L'attesa della vita si è allungata e si è allungata anche la vita degli atleti. E poi non c'è dubbio che i più bravi dedicano grande attenzione alla loro vita privata. Io per esempio sento dire le cose più credibili di Totti, lo conosco bene, so che lui ci tiene più di qualunque altro. Quando gli altri finiscono l'allenamento, lui va in palestra con come Vito tutti Scala. I grandissimi campioni di ogni sport. E certo, perché sennò non ci arrivi a quell'età. E poi dopo ci arrivano facendo prodezze incredibili come quella di Buffon, no? Buffon è chiaramente Superman, e ho Valentino Rossi pure, e Totti pure. E questo non può che farci piacere, perché ci sono anche tra noi molto bravi, atleti molto bravi e molto professionali. Sì, c'è una cosa che non capisco, che ho sottolineato anche ieri. Allora, ripeto quello che è il mio sogno per quelli che si fossero messi ai solori in ascolto nell'arco dell'ultima settimana, delle ultime due settimane. Il mio sogno sarebbe quello di vedere Totti all'Europeo chiudere la carriera in maglia azzurra e chiudere il discorso calcistico con la Roma. Non accadrà. Quello che non capisco è perché un giocatore che ha il carisma e anche l'orgoglio di Totti voglia vivere un'altra stagione da sopportato. A me dispiace infatti che lui voglia fare questo. A me dispiace anche che la Roma lo consideri un sopportato, però. E questo è nei fatti, però. Questo è nei fatti, Roberto. Come? Questo è nei fatti. Vive come un sopportato. Questo che però mi chiedo, perché uno che ha fatto la storia della Roma, che io immagino che Pallotta e chi lo circonda la sappia la storia della Roma, no? Di una società che ha acquisito, che ha tenuto sulle spalle la Roma per tanti anni, ma perché lo manda via? E perché lo manda via, per esempio, chi intende il calcio anche come business, senza fare una decina di feste dell'addio, di partite particolari, di dedicargli magliette, di portarlo in giro per il mondo, no? A salutare tutti i suoi tifosi. La Roma non è che ha molti giocatori famosi, ne ha uno, chiaro, in tutta la sua storia. Chiaro, uno. Ma io non credo che, ma non mi sembra che la Roma lo voglia mandare via, semplicemente gli sta facendo capire in tutti i modi che non lo vuole più come giocatore. Sì, diciamo che comunque, sapendo che lui invece si ritiene ancora giocatore, cosa succederebbe qualora lui se ne andasse? Che non verrebbe a cadere il famoso contratto di 6 anni come dirigente, e quindi sarebbe un addio. Cioè Totti non è che accetta di fare il dirigente se non lo considerano più un giocatore, ma la domanda infatti è: ma Totti è ancora giocatore? Io quando lo vedo dico sì, ma forse dico che è anche più bravo degli altri. Poi se lui fosse finito sarei prima a dire: per carità, Francesco lo chiamerei, Francesco lascia perdere. Sì, ma da che punto di vista? Cioè, giocatore all'Altafini, giocatore da situazioni speciali, perché quando ti dico mi piace, avrei il sogno di vederlo all'Europeo, cosa che, ripeto, non si verificherà mai perché ci sono logiche diverse, molto più rigide, Poi lui c'è poca fantasia. Però quello che ti dico come giocatore tattico in questo momento e come leader in questo momento può essere ancora qualcosa, può essere ancora molto utile. Secondo me sì, ma poi lui non ha mai detto, dice, lo sai, no? Non ha mai detto: io voglio rimanere nella Roma e voglio giocare dal primo minuto fino alla fine. Voglio solo chiarezza, voglio sapere se mi considerate giocatori sì o no. In precedenza, prima che lui giocasse questi 3 spicchi di partita per l'insieme di un'ora, non lo so, qualcosa del genere, facendo i 3 gol e 2 assist, e ci veniva detto che non si allenava, che non stava bene, che non stava in piedi, che non ce la faceva. E quindi anch'io dubitavo, dico, ma allora forse mi raccontano delle balle. Poi lo vedo dico, è ancora un signor giocatore. Tanto ho visto un interessante siparietto di Sarri e di Spalletti che si parlavano a un millimetro di distanza. Roberto, ti ringrazio, buona partita. Grazie a voi. Quindi tra un'oretta, tra un paio d'ore festeggiamo lo scudetto della Juve, mi pare, no? Cioè, festeggeranno l'Orsino? No, questo non lo so, perché io se dovessi fare una previsione direi pareggio, sì, e il pareggio basterebbe, sì, sì. E allora sì. Festeggeranno loro. Grazie Roberto. Ciao. Grazie a voi. Ciao. Io per chiudere questa prima ora insieme vi faccio sentire qualche voce del post partita o in alcuni casi della vigilia, perché c'è anche Brocchi. Allora, Della Valle ieri dopo la sconfitta contro la Juventus: l'importante è rimanere concentrati, l'importante è aver visto la Fiorentina bella che piace a noi tutti, a noi tifosi, a me proprietà, la Fiorentina di cui siamo tutti orgogliosi. Questa squadra merita di confermarsi in Europa e questo è un obiettivo che ancora non abbiamo raggiunto, quindi credo e io me lo auguro, perché poi abbiamo prefissato gli obiettivi insieme fin dall'inizio. Mi auguro che poi sedendoci bene a tavolino e vediamo che tipo di Fiorentina si può ancora costruire. Questo era Della Valle, voglio farvi sentire anche Sorrentino, portiere del Palermo, sul suo grande nemico Ballardini. Con il mister, nel momento in cui lui è tornato, abbiamo chiarito. Purtroppo sono stati fatti degli errori, però ecco, adesso dire di chi è la colpa non è giusto. E io dico sempre che la croce si fa con 2 bastoni, quindi a questo punto... lui sa cosa ci siamo detti, sa tante cose, quindi era giusto chiarirci, era giusto ripartire tutti insieme per il bene di questa squadra, di questa città, di questa società. Benissimo, ci resta un Brocchi che giocherà con il Milan a Verona, una partita particolarmente delicata. Ricordiamo che potrebbe essere anche in questo caso la partita del verdetto definitivo della retrocessione del Verona, ma è delicatissima anche per il Milan di Brocchi. Nel giorno e quindi nell'ora e mezza, un'ora e mezza che abbiamo avuto a disposizione per lavorare dopo la partita col Carpi, il mio focus era proprio quello della fase finalizzazione, quella di cercare di far capire ai giocatori che cosa chiedo, che cosa vorrei da loro, quali sono le zone da occupare, come occuparle, come attaccare gli spazi, e diciamo che la mia priorità in questo allenamento è stata proprio questa. Benissimo, adesso ci fermiamo, non c'è il GR in questo giorno, in questo dì di festa, sentiamo uno stacco pubblicitario, poi torniamo e apriamo il discorso Valentino Rossi a proposito di grandi vecchi. Tra poco seguiremo tutto, prima però spot per noi. Tutti convocati. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. convocati. Con grande affetto prima di questa gara possiamo dire che Sarri ha fatto un grandissimo lavoro. A un certo punto il Napoli ha anche sognato lo scudetto, ma forse in pochi a inizio stagione pensavano un secondo posto per il Napoli, visto che le grandi favorite erano Juve e Roma. No, è vero, soprattutto un secondo posto guadagnato con questo cammino, no? Un cammino straordinario da parte del Napoli, gioco di altissimo livello, grande fluidità di manovra, grande efficacia nel gioco offensivo e un giocatore esaltato ai massimi livelli come è successo. Questa è Sky che ci sta facendo vivere prepartita di Roma-Napoli, potrebbe dare lo scudetto alla Juventus, ha preso posto Roberto Ungaro. Buongiorno Roberto. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. E tra poco sapete già di cosa andremo a parlare. Fabio, buongiorno. Buongiorno e buona liberazione. Buona liberazione pure a lei. Vabbè, una grande festa, bisogna ricordarlo. Sì, sì, certo. Allora, io volevo fare un discorso un po' ampio e premetto che sono juventino, molto juventino. Sì. Secondo me il fatto che la Juve ormai da anni vinca senza veri contendenti, perché ormai vediamo che comunque la Juve arriva a fine del campionato praticamente da sola, sia un problema per il calcio italiano, ma un problema molto serio, perché comunque con le disponibilità economiche comunque inferiori rispetto ad altri campionati bisognerebbe forse puntare di più ai settori giovanili. Questa è la mia riflessione e comunque lo dico da juventino che da 5 anni naturalmente festeggia. Però, sì, questo, comunque, però Fabio, mi rendo conto che è un problema. Sì, è un problema perché quando una manifestazione, cioè quando un campionato ha un chiaro favorito in maniera quasi egemonica, come succede in Italia negli ultimi 5 anni, ma come succede anche in Germania, come succede in Francia, come succede grosso modo in Spagna, anche se lì abbiamo 3 possibili contendenti, quindi negli ultimi anni è un po' più divertente. Io credo sia un problema non solo del calcio italiano, sia un problema non solo di Vivai, sia un problema economico. Cioè la Juventus è la squadra più ricca, è quella che può spendere più soldi, è quella più avanti nella, ovviamente, che ha, nella costruzione di questo progetto. Non vedo una linea di tramonto sull'impero della Juventus fino a questo momento. È chiaro, si tratterà di ringiovanire quella difesa, di continuare a spendere in maniera mirata, ma c'è un'enorme distanza tra la Juventus e tutte le altre, comprese le due che stanno giocando adesso da 45 secondi sullo 0-0 con Salah che sfiora il gol. Parliamo invece dell'altro grande vecchio. Abbiamo parlato di Buffon, di Totti un sacco, ma ieri anni 37, ma non sembrava. L'ultima staccata e l'ultima frenata, l'ultimo colpo di acceleratore, sì, super aria verso il cielo, Rossi c'è e vince il Gran Premio di Spagna davanti a Jorge Lorenzo e a Marc Márquez. Sono 3 titoli: dominatore solitario, sangue blu ad Erez oppure martello di Tavuglia. Quale sceglie e perché? Guarda, il martello lo lasciamo a Lorenzo. mi piace il dominatore solitario sul cavallo con la fascia. Mi immagino così di notte da solo. Quanto è importante vincere qua? Qua a Erez, a casa di Márquez e di Lorenzo? Guarda, molto. Non lo so quanto è importante, se molto o moltissimo, comunque ho proprio goduto a essere lì nel mezzo sul podio un po' più in alto. La cosa più bella è stata la gara. Sulla griglia il mio meccanico Brent mi ha detto: primo dalla prima all'ultima curva. E io l'ho guardato e gli ho detto: però potrebbe essere anche una buona idea. E il dar gusto, quella cosa che mi ha dato più gusto è stato quando li sentivo sempre un pelo più lontani, capito? E dicevo: ah, che bello. Piaciuta Roberto questa rivisitazione della corsa di Jerez? Beh, sembrava di essere tornati ai vecchi tempi, Carlo, quando prendeva e andava via. 20 anni fa è iniziata questa cosa e continua a farlo, ma neanche lui se lo aspettava, secondo me. Nessuno di noi? No, avrebbe altrimenti preparato una gag finale. Comunque è il Valentino che conosciamo, è tornato, è uno schiaffo psicologico per tutti gli altri, perché in casa degli spagnoli ha fatto questo. E vuol dire tantissimo, sai Carlo, vuol dire davvero tanto per il proseguo del campionato. È vero che lui non è quello più veloce subito, però ha messo i puntini su lei, è ritornato per il campionato, ci crede, lo dicono tutti, è proprio a posto di testa. E quindi anche se Vale, cioè anche se Lorenzo in Ducati è questo che ha fatto parlare tanto, lui è ritornata la notizia, cioè lui è ritornato il baricentro di tutto quanto. Non è un solo all'improvviso? No, secondo me no, perché se analizzi le cose, lui c'è stato. Pole, giro veloce, gara dall'inizio alla fine, di testa sempre ha dominato dall'inizio proprio alla fine, e quindi è un Vale che si prepara per il resto del campionato, cioè non è stato un fuoco di paglia, le piste adesso diventano amiche, sono nemiche solo per la Ducati, abbiamo visto dove non conta motore, qui in Europa ha faticato molto, è vero che ci sono problemi per le gomme, però ha avuto un problema con la pompa dell'acqua, Dovizioso, ma Iannone dov'era? Assente ingiustificato. Giustificato dagli eventi settimanali. Anche. Dobbiamo parlare di mercato, poi Carlo, perché si sta dipanando un po', la Suzuki ha fatto un'offerta, una controfferta per tenere Vignale, se sai che è lui l'ago della bilancia, e a posto lui poi tutte le caselle andranno di conseguenza, ma ha rilanciato, pare 5, addirittura 6 milioni per tenerselo, e quindi non è ancora stato firmato Vignale, se Yamaha, lo voglio tutti i costi, non avevano firmato subito perché Vignales ha cambiato il suo manager e l'approccio del manager di prima non era piaciuto a Yamaha. Addirittura si prospetta un Pedrosa, però il problema qual è, Carlo? Che è Valentino, veterano 37, ma anche ormai Pedrosa è un vecchio, certo, virgolette, 31, quindi una squadra con un 37enne, un 31enne non andrebbe bene, ci vorrebbe un giovane, ci vuole uno spagnolo perché lo vuole il title sponsor. E allora punto di domanda se non dovesse venire Vignales, chissà. Guarda, adesso abbiamo convocato e arriva tra poco anche Carletto Pernat, con il quale faremo questi altri discorsi. È un po' triste perché questa gara il suo pupillo è andato piano, però lui ne sa una più del diavolo e ce la racconterà. Sì, tornando alla gara di ieri, insomma, era difficile alla vigilia comunque pronosticare Valentino in mezzo a quei due. Poi ci resta ancora il desiderio, magari un po' perverso, di vedere il duello rusticano tra i tre contendenti a sportellate, a gomitate, a vedere quello che succede. Fino adesso, per ragioni diverse, non lo abbiamo visto. No, ci manca, e l'imputato numero uno sono le gomme, Carlo, perché con queste gomme è difficile valutare, sono difficili i sorpassi, è un grosso punto di domanda. E il problema di Lorenzo l'hanno avuto anche gli altri, bisognerebbe capire quanto è stato un danno per Lorenzo la gomma che pattinava, perché sai che hanno portato delle gomme più dure, carcassa più rigida. L'ha fatto notare subito. Sì. Però si è lamentato tanto. Quello che non mi è piaciuto è che ha detto: se non avessi avuto quel problema avrei vinto per distacco. Questa cosa non può dirla, perché con un Valentino del genere l'avrebbe battagliato, ma non per distacco avrebbe vinto. Lo chiediamo anche a quello che ne sa uno più del diavolo. Sì. Ciao Carlo Pernat. Grazie per essere per me più del diavolo. L'ha detto Ungaro, l'ha detto Roberto Ungaro. Il mio amico Roberto. Carlo, sì, ciao. Chi ne sa più di te? Ciao. Nessuno ne sa più di te, dai. Senti, sai, qui ci siamo divertiti, ragazzi, veramente tanto. Credo che sia stata una delle gare più belle della vita di Valentino. Dici, addirittura. Due bene. Sì. Guarda, questo è stato un doppio cazzotto, di quelli proprio. Stati bene, perché è stato un weekend incredibile, perché già dal venerdì si vedeva che Valentino aveva un passo incredibile. Lui è molto forte di testa, ragazzi, di gente da fare. E secondo me questa operazione, allora noi stiamo discutendo di un gran premio, quindi sai, magari il prossimo sarà diverso, quello passato era diverso, però questo è un grosso valore psicologico rispetto ai due suoi avversari. Lui ha incominciato una battaglia psicologica quando ha firmato il contratto con Yamaha subito, poi ce ne si prima a dare le moto, ti ricordi, per 2 ore 46, e poi firmando il contratto, poi con la bellissima dichiarazione, ti ricordi? per andare in Ducati ci vogliono le palle, intanto si può dire. Esatto. È come aver dato un calcio nel sedere a Lorenzo, no? Gli ha detto accomodati, vai pure. Sì. Lui secondo me c'è caduto come caduto come su un bel materassone di piume, sì, Carletto. Sì, però voglio dire, un Lucio da 25 milioni di euro, che è difficile beccarlo un Lucio così, eh. Sì, esatto. Però alla fine, secondo me, da quel giorno, se vi ricordate, poi Lorenzo è caduto. Domenica si è accontentato, qui ha preso una bella paga. Sì, però Lorenzo ha detto, ne stavamo parlando con Roberto, Lorenzo ha detto, sì, ma ha avuto problemi con le gomme, se no avrei vinto per distacco. Una delle dichiarazioni più stupide che ha mai fatto, compresa quella che ha fatto la volta scorsa, dicendo che la gente non deve più stimare Valentino, ti ricordi, dopo la Malesia. E questa veramente... Guarda, Lorenzo è un gran campione perché secondo me, Roby, è il pilota più completo di tutti. Sai, completo non significa più forte, però completo c'ha tutto. Non deve togliersi il casco, deve solo tenerlo e dare il gas. Bravo, basta. Bravo, poi quando parla, buonanotte, il cervello diventa un optional, tra virgolette, scherzando. Però voglio dire, sai, la Ducati, sai, questo è un pilota, ti ripeto, più completo, però ha degli up che sono up al 100%, quando è a posto non lo batti. Però dei down che sono al 100%, quindi non è che è una via di mezzo. E è poi vero. Sai, voglio dire, il concetto qual è? Che la Ducati si è messa in casa un gran pilota che è il pupillo di Gigi Dall'Igna. Tu lo sai che con Gigi ha vinto due mondiali 250, sì, c'è una stima incredibile, poi è un pilota forte. Però secondo me la Ducati dovrebbe anche valutare il fatto che prendendo Lorenzo si è messo contro una gran parte d'Italia. Purtroppo, lo dico purtroppo, a livello comunicativo. Mm-hmm. Sai, Valentino è una leggenda vivente, non so ancora per quanto lo sarà. Certo. Io mi auguro pertanto, perché il nostro sistema ha bisogno di Valentino, essere in chiaro, e anche il divertimento, non solo sistema, punto. Carlo, ascolta, Orghe al suo fianco vuole Dovizioso perché non porta problemi, e quindi il tuo Andrea Iannone dove finirà? Perché se Vignales non va via, la Suzuki non si libera. No, guarda. Stai lavorando? Sì, io sto già lavorando, è evidente, no? Però da un po' di tempo, guarda. Io ti posso dire che non hanno chiesto il parere a Orghe. È un po' una bufala, anche perché la Ducati, francamente, non è il caso che chieda a un pilota che paga tanto chi vuoi vicino, se uno e l'altro. Certo. Sarebbe anche abbastanza sciocco, secondo me. Mm-hmm. E Gigi Dall'Igna non è sciocco. Diciamo che prima del brutto incidente dell'Argentina, dove evidentemente non doveva accontentarsi e non l'ha fatto, i giochi erano mezzi fatti, nel senso che la Ducati era più orientata su Iannone, te lo posso garantire. Mm-hmm. Chiaro che quell'episodio ha un po' spostato tutto, anche se hanno preso tempo fino a Barcellona la Ducati, lo dico. Okay. C'è una corrente di pensiero fra di loro che dice che è meglio farlo prima del Mugello, e io sono abbastanza d'accordo. Per quanto riguarda il mercato, credo che al 90% Vignales sia in Yamaha per mille motivi. Il primo è pecuniario, perché la Yamaha c'è la Movistar, che è uno sponsor spagnolo, vuole lo spagnolo, ha una sponsorizzazione di circa 20 milioni di euro, uno più uno fa due. Quindi secondo me Vignales è già in Yamaha. Credo che a quel punto Andrea Iannone sia diviso fra una prima guida Suzuki e una seconda guida Ducati. E ti dirò di più, non è detto che si aspetti poi alla fine che Ducati decida, si può aspettare. Però sai, se l'opportunità su una moto di questo genere, che è cresciuta molto e gestita molto bene da Davide Brivio, tra l'altro bisogna dirlo, io conosco Suzuki perché ho fatto 3 anni con Capirossi nel 2008, 2009, 2010. Sì, sì. E gente che sa lavorare, hanno fatto un bel passo in avanti come moto, si vede che anche come velocità sono vicini a Honda e Yamaha, un paio di chilometri, cosa che invece è sempre stato il debole della Suzuki. Hanno un telaio che è un po' come la bicicletta, una moto che anche oggi nei test che stiamo facendo sono qua i Rez. A proposito, come sta andando lì oggi, Carlo? Ma guarda, diciamo che io, se vuoi, adesso faccio una... sono sulla stampa, entro e ti dico anche i tempi a oggi, che poi finiranno, te li dico in diretta, così almeno li sai. Allora, magico Carletto. Allora, Marquez 39.3, Lorenzo 39.3, Vignales 39.5, Alex Spargaro 39.6, Pedrosa 39.8, Iannone 39.8, Pol Espargaro 39.9, Dovizioso 40.0, e Vale è entrato adesso perché sai che dorme fino a mezzogiorno. Poi ieri sera avrà dovuto festeggiare ieri sera. Una vittoria così ha dormito anche fino a luna. È giustificato. Sì, ma guarda, gli sprizzava gioia tutti poi ho parlato con Luca, sai che ad allora gli fa un po' da aiutante, no? Cosa dice? È fortissimo perché Luca mi ha detto, guarda, vivere con Valentino è uno spettacolo. Gli ha fatto un cappello con scritto coach. L'ha fatto Vale. Perché ha detto, sai, i grandi tennisti hanno un coach e c'è scritto coach. Giusto. Siccome tu sei con un grande pilota, mi devi scrivere coach. Senti, cioè, rideva come un disperato. Ragazzi, io ho una domanda via SMS rivolta a Roberto Lungaro, ma ovviamente la gira anche a Carlo Pernat, tifosissimo di Valentino. Voleva chiedervi se pensate ancora che Vale sia più lento di Lorenzo e Marquez dopo la gara di ieri. Morale, per tradurre, la gara di ieri ha riaperto la corsa al titolo mondiale, includendo anche Rossi, o le gerarchie rimangono quelle? Marquez il grande favorito, Lorenzo molto vicino e Valentino a prendere quello che viene. Guarda, se vuoi rispondere io ti dico che io non mi faccio prendere da una gara, anche se è stata una gara favolosa. Io dico a te a Marquez, perché se vai, io ho fatto un po' un conto, ho visto che l'anno scorso le prime quattro Gran Premi credo che Valentino avesse gli stessi punti di Marquez, perlomeno uno o due di differenza. Marquez è sempre andato sul podio, sembra che la lezione dell'anno scorso gli sia servita parecchio e lo vedo come un avversario tosto quest'anno, anche se ha dei problemi con moto e gomme, come tutti quanti, attenzione. Però sai, un Marquez che non cade i primi quattro Gran Premi ed è sempre sul podio, un Marquez pericoloso, data anche l'età. Sai, io adesso la carta d'identità di Valentino secondo me è falsa, non è quella che c'è scritto, evidentemente, perché battere uno di 22 anni, 23, e dargli delle sberle così anche al suo compagno di squadra, perché poi sai, gli obiettivi di Vale sono due. Primo era quello di battere Marquez, evidente, certo, dopo quello che è successo. E il secondo è quello di non far vincere il mondiale a Lorenzo, che va via dalla Yamaha, deve andare via senza titolo. Diciamo da un punto di vista sportivo, no? Quando si incaronisce Valentino, ragazzi, è dura. Cosa ne pensi, Roberto? Secondo me Vale è ancora nei giochi del mondiale. Quello che dico io è che sul giro secco, su come velocità pura, non è quello più veloce. Non ho problemi a dirlo, ma lui c'è di testa, c'è di strategia, c'è di tutto, e quel tutto serve per portarsi a casa un mondiale. E quindi Vale è della partita per questo mondiale, non è un fuoco di paglia. Vittorie così è difficile che ce ne saranno ancora, dall'inizio alla fine davanti, però non bisogna, cioè bisogna tenerlo dentro Vale nel campionato, perché anche lui è della partita. Ha detto bene Carlo, Marquez è maturato di testa, si accontenta, e uno così che si accontenta diventa pericoloso, e quindi alla fine secondo me non dico che sia il più avvantaggiato, però vuole riprendersi in mano quel mondiale. Sì, però io credo a Carlo, che ne sa una più del diavolo, questo va via dalla Yamaha, però va via senza il titolo. Questo sì. Guarda, ne abbiamo parlato anche di questa cosa. Guarda, io ti dico una cosa, però sai, io ci metto purtroppo una incognita in più, è quello che sta diventando un campionato mondiale Michelin più che dei piloti. Ora che lasciamo perdere questa gara con la gomma, c'è dei grossi problemi, ragazzi. Magari la prossima volta a Le Mans ci sarà dei problemi diversi. Carlo, il Gran Premio sarà diverso. Il tuo Iannone cosa dice? Perché qui la Ducati non va? Qual era il problema? Solo le gomme, guarda, o c'è altro? Guarda, io ti dico, sì, le gomme a noi ci stanno penalizzando moltissimo. Ok. La gomma che abbiamo usato a Austin, che era simile, è andata bene perché là c'era molto grip. Qua c'è meno grip. Mm-hmm. Diciamo che a noi ci sta penalizzando questo tipo di gomma in alcuni circuiti, compreso questo. Io, sai, butto un po' di acqua sul fuoco, certo, e la buttavo anche prima, perché la scorsa stagione, le prime tre gare, la Ducati sembrava dovesse vincere il mondiale, se vi ricordate. Sì, sì. Perché Dovizioso era secondo, sì, abbiamo fatto una marea di podi, ha rischiato di vincere con Valentino la prima gara, se vi ricordate bene, in Qatar. Quest'anno, se non succedeva quel brutto fatto dell'Argentina, in classifica saremmo tutti di secondi e terzi. Era la stessa cosa, la cartina di tornasole, come si dice in gergo, era Jerez. È andata male, magari sicuramente per le gomme, però vi posso garantire che è andata peggio dell'anno scorso, purtroppo. Perché l'anno scorso, se vi ricordate bene, io non arrivo sesto, però fece un grosso errore mettendo la mappa del bagnato sull'asciutto e non si poteva cambiare, quindi la moto perdeva due decimi al giro, minimo tre. E aveva preso, se non sbaglio, 10 secondi, quest'anno ne abbiamo presi 28. Sì. Io guardo mai la posizione, guardo il distacco. Senti, ma quanto è difficile tenerlo, quanto è difficile tenerlo tranquillo in questo momento, Iannone, che è un pilota di grande talento, di grande sangue. Guarda, non è facile sicuramente, perché sai, più sei talentuoso puoi vincere quando ti va male le cose. Però secondo me quello che francamente è accaduto in Argentina, un po' di lezione tra virgolette può essere arrivata, nel senso ha capito che doveva accontentarsi. Ma infatti ieri, se vedi la gara, a parte che abbiamo cambiato la gomma all'ultimo minuto ed è una gomma sul davanti che non abbiamo mai usato, quando è partita ha avuto qualche problema con la frizione, però non poteva buttarsi dentro con una gomma alla partenza che non conosceva. Sarebbe stato, penso, se cadeva, altro che pirla, come diceva Milano, no? Dopo quello che è successo. Quindi, parliamoci chiaro, quindi io sono abituato a parlare chiaro, sai, Giorgio. Quindi, ti amiamo per questo. Bravo. Quindi, alla fine, poi è venuto su bene, girava con i tempi di Marquez e Pedrosa gli ultimi 7 giri. Bene. Quindi poteva andare meglio, però sono punti buoni. Vediamo un po', certo che stare tranquillo adesso deve fare lo Iannone di sempre. A un certo momento alle Mans bisogna cercare di fare podio, serve Ducati e a tutti quanti, e anche per la decisione che Ducati deve prendere, come avevo detto prima, anche se, come ha detto Giorgio, le decisioni poi le prendono anche i piloti, non solo le case, ecco. Sì, questo è chiaro. Carlo, grazie. Grazie a voi, come sempre. Grazie Carletto. Grandissimo, ciao. Grazie, Carlo. Grazie Carlo. Ciao. Pernat. Adesso facciamo ti porto un attimo in Inghilterra, poi chiudiamo il discorso invece andando in Francia a Le Mans per capire cosa l'8 di maggio può succedere in quella gara. È chiaro che insomma il podio di ieri è stato bellissimo, anche così, una metafora, come immagine, certo, da vedere. Lui lì con i pugni al cielo, Marquez con il solito sorriso da Joker che dice: oh, che bravo Valentino, molto fake, e chissà cosa fa. Lorenzo imperterrito. E Lorenzo che invece no. Hai visto che non si sono dati neanche la mano, non si guardavano, c'era una tensione. Giusto così. Si tagliava col coltello. Roberto Uno, giusto così. Gara. Allora, facciamo un salto in Inghilterra, dove sta succedendo una cosa incredibile, come sapete, con il Leicester di Ranieri, sempre più vicino al titolo. Ieri ha battuto lo Swansea di Guidolin in una partita molto strana, fosse stata una partita di campionato italiano ci avremmo ricamato su tra ufficio, inchieste e compagnia bella per giorni, però insomma, 4-0 e siamo tutti contenti perché l'Leicester va vicino al titolo. Sentiamo un rap dedicato a Ranieri. It's amazing. Also, hey man, we are in Champions League. We are in Champions League, man. Dilly din, dilly don, come on. We are in Champions League. Dilly din, dilly don, come on. Come on, man. Oh, it's fantastic, fantastic. Terrific. Well done to everybody. The honor. Mica male. Guidolin, invece, ieri sconfitto. Strapazzato dal Leicester, che ora si mette alla finestra e aspetta di capire cosa farà il Tottenham, ma a questo punto il titolo d'Inghilterra è vicino. Guidolin. Ho capito le lacrime di qualche settimana fa prima di entrare in campo, perché ha costruito insieme ai suoi giocatori un ambiente straordinario da pelle d'oca, anche se ci arrivi qui da avversario, veramente. Dal vivo è una cosa particolare, bellissima, che è difficile da spiegare per chi magari vede la partita in televisione, e quindi complimenti a lui, ha costruito un giocattolo meraviglioso. Roma 0 Napoli 0, 22esimo minuto. Emanuele Corazzi, inviato di Fox a Leicester per vivere questo momento, non so quanto starai lì, ciao Emanuele. Ciao, buon pomeriggio, ma in realtà ancora oggi, giusto per raccogliere ancora qualche testimonianza e poi tornerò a Milano, però qualche testimonianza oggi l'ho raccolta, per esempio quella del sindaco che ha raccontato che da venerdì la città diventerà tutta blu, questo anche un po' per fotografare la vacanza emotiva che stanno vivendo a Leicester, la cattedrale, il municipio, tutto diventerà blu, anche una mini versione della Statua della Libertà che vicino allo stadio sarà avvolta da una mega sciarpa. stanno vivendo qualcosa che loro ovviamente sono non hanno mai vissuto, perché un titolo non hanno mai visto. Sono proprio inglesi, eh. Avessero fatto una cosa del genere qui in Italia, avresti visto in giro tutti gli abitanti di Leicester con le mani infinate nei pantaloni. Però devono cavalcare in questo momento. Ah, sicuro. Come diceva Guidolin, ma anche Fabio Capello, che ha commentato la partita per noi, al termine ieri ha detto: io di stadi, insomma, ne ho girato qualcuno, ma non ricordavo di essermi emozionato di recente così tanto da spettatore, perché tremava tutto. Effettivamente c'erano 30.000 persone, avevano questi aggeggi, questa specie di cartoncini con cui facevano un chiasso micidiale. E poi sapete che c'è l'università di Leicester rilevando le scosse che ci sono dopo ogni gol della squadra. Ieri, insomma, le scosse ce ne sono state. Sì, partita rivedibile, eh? Swansea rivedibile, non mi è sembrata esattamente una partita tra una squadra che deve vincere il titolo, certo, e un'altra che dà tutto per magari impedirglielo, per darle fastidio. Sto usando tutte le perifrasi che riesco, Io ti posso dire questa cosa. Sabato sera ho incontrato Guidolin prima della partita. Il suo futuro è in bilico allo Swansea, perché sì, era un contratto fino a fine stagione, e quindi si gioca molto da qui alla fine. Personalmente, veramente, aveva preparato la partita in un certo modo, mettendo Sigurdsson falso 9, quindi aveva un'idea. All'inizio un pochino hanno messo in difficoltà, è un inizio relativo, è durato pochissimo. Poi il difensore centrale sbaglia il rinvio, glielo butta addosso all'avversario, in quell'atmosfera lì, con l'altra squadra che sta così bene. Non lo so, non riesco a pensare male, sinceramente, per tutta una serie di motivi. Questa è la percezione dal vivo, e unendo anche i protagonisti coinvolti. Va bene, grazie Emanuele. L'abbraccio. Ciao, divertiti lì all'estero. Io voglio chiudere il discorso con invece motociclistico con Roberto Ungaro. Ho anche un messaggio che te lo leggo. Ha ragione Pernat da Ducati con Lorenzo il traditore. Insieme a Marquez purtroppo non si potrà tifare Ducati. Scelta veramente inopportuna quella della rossa. Ma non sono d'accordo, perché il tifo, la passione per il marchio, per il brand Ducati, va oltre al singolo pilota. Ricordiamocelo, Ducati è una cosa unica, e quindi ci può stare che un pilota non sia... Chiaro, Valentino sarebbe stato un sogno, ma non ha funzionato. Ducati è Ducati, è un brand che fa la differenza, e c'è una tale passione, un attaccamento a quel marchio, che si va oltre all'antipatia di un singolo pilota, Carlo. È così. L'importante è che sia davanti la moto e che vinca, questo è l'importante. Senti, abbiamo ancora un minuto per Le Mans. Immaginare cosa possa succedere a Le Mans. Le Mans è una pista amica da sempre di Yamaha, cioè ha sempre fatto bene per il tipo di telaio, di motore che ha questa moto, ha sempre fatto risultato. Il mondiale è ancora apertissimo, perché ok, Marquez gestisce, ma ha solo 17 punti c'è Lorenzo, e a 24, ricordiamocelo, c'è Valentino. Siamo solo all'inizio, tutto può ancora accadere. Speriamo che il punto di domanda Michelin sia a posto, è quello il grande, l'ha detto anche Carlo, è un mondiale baricentrico sulla gomma e non tanto sui singoli piloti. Honda sta risolvendo i suoi problemi, Pedrosa deve capire dove andare, a Barcellona vedremo, si chiuderà tutto il mercato e il percorso da qui a Barcellona sarà importantissimo. Secondo me potremmo rivedere un Lorenzo protagonista, ma che se la battaglia ancora con Valentino, e Marquez in mezzo che si gioca fra i due, e sarebbe il più bel finale di gara a cui potremmo assistere. Non vedo l'ora. Vero? Non vedo l'ora. Sportellate vere, senza problemi l'ora. Senza se, senza ma, senza gomme e senza elettronica. E ne parleremo, Roberto. Come ne sempre. Parleremo. Come sempre. Grazie a Roberto Ungaro. A te. Grazie a Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Federico Bini in redazione. Ci sentiamo domani in diretta, ovviamente, alle 14. Ciao. Ciao. Signori, alla prossima.